La prima, questa storia di studio, quando cominciamo 60-15, tutti questo, perché questo 75. 70, no? Istinto l'ho scritto nel 70, cioè il libro Sì, libro. l'ho scritto nella fine del 70, sì. Il primo libro, A Stato di Morte e di Conscience, che è questo. E questo. Storia di gente che sono venuti al studio, che la psicologia di gruppo. È la prima volta in Italia o... Ma credo nel mondo. E questo io voglio sapere. Nel mondo credo che non sia mai accaduto. Il massimo dei gruppi sono gruppi di 15-20 persone. C'è una psicoterapia di gruppo, però a piccoli gruppi. Non so se arrivano 25, 30, non credo 30. Sui 20-25. E in questo studio più di 25, sempre. Io ho visto ieri 200. Mamma mia. 150, 200. Ed è la prima volta, è così, fare una serata di gente che vieni dopo, prima volta 10, dopo 20, dopo questo gruppo. Sì. Così. E come mai tutti questa gente in questa filosofia, in questo gruppo? Sono delle gente che non sono malati. Chi ricerca qualcosa di diverso. C'erano, ci sono stati malati, ce n'è qualcuno. La maggioranza, no? Qui il discorso è un po' più difficile perché malati nel senso psichiatrico clinico, no, effettivamente. C'erano all'inizio. C'erano all'inizio, poi man mano non hanno retto, o io stesso no, non ho allontanati. Perché nel gruppo c'è anche una ricerca, no? Non è soltanto terapia medica, c'è anche Non c'è. una ricerca, una elaborazione, scoperte continue. Di qualcosa sociale o su tutti? Particolarmente sulla realtà psichica, sull'inconscio. Dopo, ovviamente, messi anche filosofici, anche politici, sociali. E che è la differenza del studio di 75 adesso? Che è la metamorfosi? Mia? No, no, Nel di 65 questa io gente che si cambia facevo, in non questa c'era gente. nel 65, o No, 70. 75. Beh, la storia, un po' la storia. Io non decisi di fare questo. Io fui chiamato all'università per fare un corso di supervisione a settembre 75, a 10-15 anni. Una supervisione di casi normalissima, classica. Dopo qualche settimana, ottobre, cominciarono ad arrivare altri. Era praticamente un'aula pubblica universitaria. E quindi studenti, laureandi, psichiatri. E nel corso di novembre cominciò a venire molta gente. Dicembre, ancora molta gente, si sparse questa voce, non so come accadde. E finché a gennaio 76 era pieno, in una sala, c'erano state 80 persone. E una ragazza disse, io ho fatto un sogno. Io invece di dire no, sogno si racconta in privato, va bene, risposto. E lì cominciò l'interpretazione di sogni. Poi un altro, un altro. E quello che poi è stato il fondamento, l'interpretazione di sogni. E questo, c'est-à-dire l'interpretazione di sogni, come c'è in questo studio? Come, è mediata di me. Una persona racconta un sogno e io l'interpreto. Te unicamente o tutti questa gente che sono qui? Tutte le gente di studio? Come tutti, sì, ognuno racconta il suo, quello che vuole. Ma nessuno non posso parlare di sogno di l'altro, anche interpreta, no? Ah, se Adesso. sei capace, sì, ma gli altri non sono capaci. Io ci provo perché ci Sì. sono molti colleghi, no? Ah, molto colleghi anche di psichiatra. Sì, ci sono molti psichiatri. E io mi diverto a dire prova. Sì. E non ce la fanno. È difficile cogliere. E come, questo è un segreto, penso, come te, se la faccio questa, posso fare una buona interpretazione di sogno. Come faccio io? Sì. Il discorso è Se la difficile. di fare una. Lo stiamo cercando, lo stiamo vedendo e ci deve essere una cosa di fondo, io non ho paura dell'inconscio. E quindi lo ascolto. Nelle persone, in quasi tutti, di fronte all'inconscio, c'è un'immediata chiusura, perché c'è la paura. E questo è stato visto e studiato anche nel corso della storia. Per dire soltanto quella recente, dopo la rivoluzione francese, c'è stata tutta la letteratura dell'Ottocento sulle mostruosità. Hoffman, Edgar Allan Poe, fino ad arrivare a Frankenstein, se vogliamo, fino ad arrivare al famoso Mr. Hyde, cioè sotto c'è cioè il mostro. Sempre. Quindi la gente ha paura e istintivamente si chiude. Io non ho paura perché io non credo che ci sia il mostro. O meglio ancora, il mostro c'è, ci può essere. Ma non è natura umana. L'idea è questa. Non è natura umana, non è naturalità, è malattia. Perché l'inconscio di per sé non dovrebbe essere malato. Questo è il problema. Per cui io mi confronto col malato, non con un altro essere umano spaventoso. E quindi l'ascolto non lo è, quindi posso capirlo. Il fondamento è questo. Tanto più che si dà il caso che io abbia cominciato scoprendo l'istinto di morte. Cioè, quello che si teme di più, quello che fa paura, non è nemmeno la rabbia, l'odio, è l'istinto di Storia di morte. Freud, donc, No, veramente. scusa. È l'istinto di morte, è la pulsione di annullamento. La fantasia di La disparizione. pulsione di annullamento, che è un fatto conoscitivo, un fatto. Freud si è fermato al sadismo, cioè, sì, alla lesione fisica. No, quella non c'entra. Oltre, è una pulsione particolare che non fa vedere le cose, cancella, le rende non esistenti. E che è quella che fa più paura. Perché non attacca il corpo, il sadismo attacca il corpo, rompe le gambe, le braccia. Sì, fare male il corpo. Questo invece attacca la mente e quindi fa paura. Sarebbe il potere di fare impazzire, non di picchiare. Io l'ho scoperto, quindi non mi fa paura, l'ho smascherato. Da qui deriva la possibilità di interpretare e di capirli. L'ho scoperto da una ricerca personale in tua vita o ricerca su altri malati, su altri Beh, gente io ho normale? cominciato fin dalla laurea a occuparmi di psichiatria. Ho Io ho fatto il medico, io ho fatto il psichiatra, io ho fatto il psichiatra. A Venezia, a Parma, poi sono andato in Svizzera, da Spagna. Cioè, è una ricerca che è cominciata anni fa, per cercare queste cose. Come andavano le cose della pazzia. Cerca, ho fatto tutto il training analitico, ho fatto tutto per cercare nell'inconscio, in questa dimensione inconscia, finché ho scoperto questo nel 64-65, l'ho verificato con i pazienti in analisi individuale e poi alla fine del 70 mi sono deciso e ho scritto Istinto di morte, il primo libro. E ritorno a questo sogno, tutti i sogni di questa gente sono un sogno che dovrebbe essere qualcosa o posso essere un sogno che non significa niente? No, i sogni significano niente. Sempre qualcosa? Sempre. Posso essere un esempio così? Esempio. Non so, dipende perché... Bisogna stare attenti. Cioè, anche di piccolo sogno voglio dire sempre qualcosa. Sì, sì. Perché c'è un altro principio. Freud parla di narcisismo, di chiusura. Come se l'inconscio fosse dentro, senza rapporto con la realtà. È completamente falso. L'inconscio è perfettamente in rapporto con la realtà. Quindi quello che tu sogni è sempre una trasformazione di fatti materiali reali in immagini inconsci. Quindi io posso interpretare seguendo questa cosa. Per cui non c'è un sogno strano, o che so io. C'è riferimento alla realtà. Quindi io posso interpretare, anche senza che tu mi dica niente. Mm-hmm. Specialmente nella misura in cui si vive una storia, i tuoi sogni si riferiscono a questa storia. E quindi la so anch'io. Non c'è bisogno, se tu sogni, mettiamo, tu potresti sognare Mitterrand, lo conosco anch'io Mitterrand, non ti chiedo chi è Mitterrand, lo so. Ah, ecco la mia. Dopo questo libro, moi j'ai vu la prima via, c'était via della Massimo, no? La prima via di Milano. C'est-à-dire la prima o la struttura dell'università. Via del Massimo, Villa Massimo. Villa Massimo. Sì. E dopo Piazza Via Roma, Via Roma Libera. Via Roma Libera, dove sei venuto ieri? Io sento qualcosa di... C'è Massimo, io sento sempre questo Massimo. Sì, quella si chiamava così. E poi dopo Roma Libera. Mi piace molto questo due nomi, anche per... Sì. Beh, quello è un caso. Così. Un caso così, perché lì a Roma ci sono i principi Massimo, no? Sì. Si chiamano così. Ma io non lo sapevo, no? Sì. E quella è la zona di questi principi, per questo si chiama Villa Massimo. E adesso te si posso dire questo, se te è veramente il principio, non azzurro, ma il principio per tutta questa gente? Io non ognuno... capisco, per me è questa la prima sensazione che io conosco di gente che va a tuo... Che scrivo fate in questa gente? Io non posso non andare. Sì, se unicamente qualcuno che parla, ok, una volta, due anni, non 15 anni, sempre. E per me le gente sono praticamente così, come dei discepoli, non lo so se voglio dire dei discepoli. Disciplina? Praticamente, c'è come una scuola di pen. C'è e questo adesso non c'è né a Parigi, perché la gente non crede a niente, praticamente. Non è vero. Guarda che non è. Se noi osserviamo, primo, in analisi individuale ci sono moltissimi che fanno 10 anni, quando non ne fanno 15. A Parigi non c'è. Il fenomeno Lacan? Fenomeno? Lacan? Sì. Non ci andavano, ma si dice. Ma pas in questo, c'est-à-dire continuità de 15 anni. Ma non tutti. Mm-hmm. Capiamoci. Per me... Ci sono quelli che vengono da 15 anni, ma saranno 20, 30. Uh-huh. Ah, io penso tutti in questo. Che dopo si sono cresciuti. Prima erano magari studenti, adesso sono psichiatri, adesso lavorano. E ci sono persone che vengono da 3 anni. Ci sono persone che vengono 2 o 3 mesi e poi se ne vanno, perché la cosa è assolutamente libera. E questo è un bel totalmente libera, io non so nemmeno i nomi. Non c'è contratto, non c'è niente, assolutamente niente. Quindi ognuno è liberissimo di venire, c'è chi viene, poi va via, poi ritorna, è liberissimo, non c'è una cosa fissa. Mais il n'y a pas de gente que tu refuses, tu rifiutes, non? Che mi rifiuta? Non. Te que dici sì. Non. Sì. Quel genere di gente? E quando sono molto malato, quando sono troppo malato, allora succedeva in passato. Ma adesso no, non vengono proprio. I malati non ci vengono più. Si è formata un'immagine. Per cui qui ormai si fa ricerca difficile e quindi i malati non ci vengono. 6, 7, 10 anni fa li mandavo via, non li ho cercati. È diventato un momento difficile, proprio nel passaggio dall'università a via Roma Libera. E c'è di gente molto normale anche per lavoro, non c'è più. Normalissima. Sì, c'è-à-dire lavoro altre cose che la psichiatria. Ci sono tutti. Tutti. Da filosofi, insegnanti, ematologi, chirurghi, pediatri. Un sacco di architetti. Cioè una percentuale di architetti notevole. Anche di artisti, penso. Sì, molti artisti. Musicisti, pittori. Sì. E bisogno di questo perché? Di questo studio, penso. Beh, è la ricerca sull'inconscio. Su questa dimensione misteriosa che è quello che si chiama inconscio. E per te l'inconscio e lo conscio è lo stesso o diverso? Il conscio e l'inconscio. È la stessa cosa? No, no. O due cose diverse? Beh, io tendo a unificare. Faccio sì proprio che l'inconscio non sia più inconscio. Faccio sì, il mio lavoro è proprio quello di evitare che l'inconscio venga visto, pensato come un mostro terribile che va tenuto lontano, insomma. Bisogna passare la vita a controllare questo mostro che abbiamo dentro. Ma non esiste. Se c'è una mostruosità è malattia. Curiamo la malattia. E l'inconscio è una ricchezza, non è un mostro. È sede della fantasia. Il desiderio è qualcosa di... desiderio, e si arriva al desiderio. Sempre. Già, si arriva al desiderio che non è conosciuto. Da te o da... Da tutti. Anche da te, no? Sì. Io sì, io lo conosco. Lo conosco. E certo. Perché non si è mai distinto dalla violenza. Si parla di desiderio di morte. Ora, dare la morte non è desiderio. C'è stata sempre una confusione infernale. Perché il desiderio è inconscio. Quindi se l'inconscio è un mostro, il desiderio non c'è. C'è solo violenza. Quindi prima bisogna far sì che l'inconscio non sia più un mostro, poi viene il desiderio. Altrimenti non c'è. Moi je vous questo per qualcosa, desiderio anche da mangiare di tutti questi. Non è desiderio. Ah, questo non è desiderio. No, quello è bisogno. Se tu hai sete, non è dice, è perché sei diventata, ti sei abbassata il livello di acqua. È un fatto meccanico. Non c'è niente con questo. Tanto è vero che se invece di bere io ti faccio un flebo, la sete ti passa. Così mangiare è perché la glicemia si è abbassata. Perché cioè, è un fatto meccanico. Non ha niente a che vedere con questo. Il desiderio è proprio un rapporto interumano in particolare tra uomo e donna, che non obbedisce, che non è un bisogno. E entre uomini e donna unicamente, non uomini e uomini, non donna e donna. Per te questo è assolutamente... No, perché c'è il rapporto con la realtà materiale. C'è un fatto di identità. Io non posso annullare il fatto che sono, che ho un corpo maschile. E quindi, ovviamente, il rapporto è col corpo femminile. E questo, l'altra gente sono delle gente malata? È malatissima. Perché annullano, ecco, l'annullamento della propria, di una realtà. Della propria identità. È un po' la storia, come se io prendo una poltrona e ci mangio. Ma no, la poltrona, non ho che discorso, è un'altra cosa. O mi metto seduto su un piatto, ma è pazzo, è la stessa cosa, non c'è il rapporto con la realtà. È l'annullamento di una realtà fisica precisa. È chiaro. E questo secondo libro, La marionetta e la Burattino. Burattino, quello lo scrissi nel 74 insieme al terzo, Psicanalisi della nascita. E se io parlo di qua generalmente? Però lo sviluppo del pensiero, dopo il primo, tutte le dinamiche di introiezione, proiezione, castrazione. Voglio dire a te che questo giornale va essere dedicato, può darsi a un pubblico francese e a un pubblico tunisino, ma un pubblico tunisino molto diverso. Lì non so qual è la cultura. Sì, e questo è vero. Non ma è vero che c'è tanta differenza? Molto differenza. Sì, eh. Ma adesso sono molto apri per sapere molte cose anche da altri paesi. Ma è vero che anche io parlo di desiderio di mangiare, io penso a Ramadan, non lo so se te conosci questo Ramadan, questa cultura. Per cui mangiano di notte? Niente, sì. Normalmente non è questa storia di mangiare di notte, fare una giornata di stoppare tutti i desideri, non desidera niente, fare come l'uomo è più maître del suo desiderio, non mangia, non fare tutti quello, niente, lavoro sì. Strano, eh? E questo è molto perché strano. Questo è anche il sabato ebraico. Sì, anche... Ed è l'antica, adesso non tanto, ma c'era anche il venerdì. Sì, lo so. Per cui c'era il giorno di digiuno, no? Mi parlo di purità, essere puro. Sì, molto. Il venerdì non si doveva mangiare carne, eccetera. Sì. È il concetto di quaresima. Il Ramadan in fondo è la quaresima. Praticamente, sì. Per cui c'è il periodo di astinenza, ma quelle sono, si pensano, che siano i momenti in cui la religione diventa igiene, serve per igiene fisica, dietetica, fa bene anche a tutti se un giorno non si mangia, serve per depurare l'organismo, no? Quelli sono i momenti in cui la religione diventa anche una regola igienica, eccetera, come si dice anche dei musulmani con l'alcol, no? Perché l'alcol nel deserto a 50 gradi rovina, sì. L'alcol va bene quando è freddo, al nord allora scalda, va bene, ma a 50 gradi nel deserto e diventa una regola religiosa, ma in verità è perché è una regola igienica. Queste sono molte di queste cose. Mette per la religione niente, c'è-à-dire per la religione, per questa storia di Dio, di paura, di l'ateismo, inferno, sì. Anche perché c'è un principio preciso che l'origine è biologica, l'origine degli esseri umani è biologica. Le Big Bang, voglio dire. Le Big Bang, voglio dire. L'origine. Big Bang. Voglio dire la prima, il primo momento. No, quello non me ne occupo, quello se ne occupano i fisici. No, ma voglio dire la prima. Il momento della nascita umana. Normale, da adesso, c'est-à-dire du fetus. Esatto, il bambino. Il fetus del bambino. Non di primo uomo. No, lì c'è il pensiero, sì, culturale, dell'evoluzione. Di Darwin o di altri idee? Questa poco, ma ci sono anche scoperte moderne, per cui il cervello umano 7 milioni di anni fa era piccolino così, poi è cresciuto. Ci sono queste scoperte. Stanno cercando quando ha acquisito il linguaggio, no? Che si è abbassata qui, ci si è abbassata la laringe, per cui non so se hai letto. No, malauguratamente no. Questa ricerca mi sembra assolato che c'è questo sviluppo cerebrale negli esseri umani. Prima no, prima era un cervello di mezzo chilo. Bon, per la gente che pensa ancora a Dio, pensa ancora alla religione, che sono ancora schiave di questa idea. Sì. Per te, non lo so, come fare per, no, pas per cambiare, ma anche per trovare la strada di ricerca unicamente. Io ho fatto questo lavoro qui, per cui il concetto di onnipotenza è legato proprio all'istinto di morte. Il concetto di cosa onnipotente è proprio questa astrazione, questo annullamento, questo fenomeno di nascita, per cui questa funzione che annulla la realtà, no? È onnipotente. Da un'improposizione di onnipotenza, la divinizzazione del mondo parte da questa cosa qui. Parte da questa cosa qui, questo è un discorso lunghissimo, dall'animismo, no? Sì. Da quando i primitivi, o tuttora ancora in Africa ci sono, in Melanesia, eccetera, che danno un'anima agli alberi, sì, alle pietre. E questo unicamente da paura della morte, ancora questo sì, ma non è solo paura della morte, per me è proprio l'alterazione della realtà fisica, è proprio un'angoscia dovuta alla paura della follia. Noi non abbiamo paura della morte, la cosa della morte non si ha la sensazione. Mia paura di dopo la morte non c'è niente. Sì, ma io prima è questo il mio problema. No. La paura della morte non c'è. Quindi se tu parli con uno di 90 anni, non ha la sensazione che quello può morire da un mese all'altro. Ma non c'è questa angoscia. L'angoscia della morte è l'angoscia della follia. Si ha l'angoscia di perdere la testa. Si ha l'angoscia di impazzire. Quella è l'angoscia. Non è l'angoscia della morte fisica. Quella l'uomo non ha vita. Non lo sente. Lo sa. Continua la sua vita regolarmente. C'est-à-dire, non c'è, penso non c'è questa paura di dopo la morte? No, no. L'angoscia è l'angoscia della follia, di perdere la testa, di impazzire. L'angoscia è l'angoscia di impazzire. La morte è perdere il bene dell'intelletto. Non della morte fisica, no? La morte spirituale. Mentale. Questo per me è un problema ancora, se la dico, no, perché non per me, anche per gente molto famosa, con te, con molto, io non penso che un giorno io un morto e dopo questa gente non esisto, e questo è una, io penso, stupidità, una falsa, una verità, che qualcosa di... Non si ha, non ho la sensazione... Se la dico, lo so che te adesso capi. Ti sento bene, tutto questo. Ma Non una volta penso perché non esisto dopo la morte, no, mai. No, finisce tutto. Tutti questi anni di pensiero, tutto questo. È proprio una sensazione di propria identità, di rapporto con la propria realtà, è così. Questo è un organismo che funziona. Che ha un anno, che ha un tempo. Come un albero, come una macchina. Come... Sì, ma penso che una più che la macchina, no? Sì, proprio è più complessa, ma è una macchina. C'è un'anima o no, per te? No. Mamma mia. C'è un fatto psichico, una dinamica più difficile da scoprire. Allora, una macchina può essere intelligente, no? Beh sì, per questa dinamica noi chiamiamo intelligenza questa capacità di vedere, di comprendere le cose più invisibili. Che è un fenomeno che è sempre successo. Certamente hanno scoperto il sangue, hanno scoperto i globuli rossi, sempre cose invisibili, sempre cose più piccole, piccole, piccole. No? Nella realtà fisica. Adesso, troisième casse. Allora, perché non scrive un quinto e un quarto? Perché mi dicono che sarebbe una violenza contro di loro. Perché sento sempre che te è violento con loro? Perché andrei troppo avanti. E hanno paura di questo? O... Hanno sempre paura della Pandora. Di andare avanti. Che io vado avanti. Tutto il problema è che cercano sempre di fermarmi. Di tenermi fermo, tenermi buono. Io devo sempre conquistarmi la libertà. Da loro. Da loro. È un amore un po' possessivo. Ma che ti piace. Sì, sono bravo. Bisogna di questa gente, te uno. L'abbiamo parlato proprio ieri. L'abbiamo parlato proprio ieri. Cioè il discorso è che io la mia identità me la sarei fatta. Sono riuscito in quello che volevo fare, scrivendo i libri, la teoria, la scoperta, tutte queste belle robe. E quindi questi sono amori così, ci possono essere e ci possono non essere. Chiaro, sarei solo, altrimenti. Però non sarebbe indispensabile per la mia identità. Si sono arrabbiati, si sono arrabbiati. Di ieri? Ma scusate di questo? Sì. Ma è scusate veramente la verità? Penso... Non lo so se è la verità. Uh-huh. Io non lo so perché. Tu che diresti? La storia è questa. Il rapporto è questo, è bello, è importante, fondamentale, creativo, intelligente, tutto bello. In teoria si potrebbe dire, beh va bene, ma tanto anche da solo vivresti lo stesso. Sì, posso dire. Vivo lo stesso, ma è un'altra cosa, non saprei. Ora, quanto è indispensabile? Peraltro uno solo non ci può stare mai. E chiaramente farei altri rapporti, farei altre cose. È difficile trovare un rapporto più bello di questo. È vero, più bello. Gente che viene di tutti. Treno per. Ma poi sono belli loro, sono intelligenti, sono. Hanno capito tante cose. Difficile trovare persone a quel livello. Adesso. Se vai fuori, siamo stati al congresso a Lecce il mese scorso. Sì, no. Questi cari colleghi sono un disastro, proprio. La stupidità, l'ottusità, mamma mia, una cosa terribile e terrificante. Di loro il confronto sono loro i principi azzurri. Sono magnifici, è difficile trovare questi. Quindi, come si fa a dire se in realtà la storia è questa? Quanto è servito a me? Servito serve sempre. Serve sempre. La sfida, a vedere se io ce la facevo. E penso che questo studio rimango ancora l'indefinito. Non penso un giorno te di io adesso c'è. Voglio cambiare tutti. E che faccio? Non c'è una prospettiva o una possibilità? Se da te penso veramente fare questo sempre. Non c'è qualcosa non in... Non c'è. Che faccio? Con una lista individuale? Lo faccio? No, non è questo. Anche viaggio sempre... Ma il viaggio lo faccio quest'estate. Ci sono le vacanze. No, se da dire partire per esempio all'India, non lo so, in Siberia, in India, in Tunisi, non lo so, e rimango 2, 3, 4 anni. Ma si scopre che un thailandese non è differente da un italiano. Come questo? Un francese non è differente. Di desiderio o di altro? Di tutto, di psicologia, di realtà psichica. Penso che tutti gli uomini pensano sempre la stessa cosa. Cioè, ognuno è diverso. Sì. Ma non è diverso perché è cinese o americano. Le dinamiche sono quelle. L'annullamento è quello, la castrazione è quella, la dissociazione è quella, la rabbia è quella. Non c'è una rabbia cinese, una rabbia americana. Sono tutte uguali. Il desiderio è quello. Che sia thailandese, francese o americano. Non bisogna di andare in un'altra parte. Quindi diceva la fa. Giusto per vedere i posti, sì, ma quello lo posso fare a livello di vacanza. Quindi andare a cercare un'altra situazione più interessante, credo che a questi livelli sia praticamente impossibile. Ma non ti ennui, tu vuoi dire in italiano, non ti... Annoie? Sì. Impossibile. È una sfida continua. È una sfida continua. Ogni volta io mi trovo 200 ogni giorno persone che mi guardano e dire vediamo se oggi tu sei bravo. Sì, è vero. Loro non posso sbagliare una cosa. Sì, e questo non c'è un paura per te. È questo. E finora in 15 anni ci sono riuscito. Ho fatto un conto, grosso modo, sì. Avrò fatto 2000 seminari, avrò interpretato 100.000 sogni, finora non li ho sbagliati. Il fascino, ecco, la bellezza di questo rapporto è questa, la sfida. Ogni volta mi dicono, vediamo se oggi sei bravo. Sì, il è questo psichiatra che ha di... Io voglio vedere una volta che lui fare un'idea di me, se da dire, il aspetta il momento per fare così, c'è una lotta. Sono pronti. E ti piace questo gioco, no? Beh, lo so. È la cosa più bella che si possa dire. Sì. Avere una donna o un gruppo che ti sfida, che non ti permette nessuna inerzia, nessuna assenza, nessun difetto. Cioè mi costringono ad essere sempre bravo, pulito, eccetera. È una frustrazione continua. Ma un giorno non voglio dire no, basta, io voglio essere, non lo so, anche sbaglio, anche non lo so. Ma allora significa morire. È così. Significa morire. Se uno non c'è più stimolo. Questi mi no, provano. Non si stimolo bene, ma una volta bisogna di riposo, no? Ma riposo dormo. Quando dormo basta. Che vuol dire? In tua vita non c'è un massimo, un altro massimo. Non so, ce ne sono state tante. Poi però al confronto non hanno retto. Sono andato più avanti io. Sempre, sempre, sempre. Almeno sempre. A salvo gli sbagli giovanili, le stupidaggini di quando si perdono le donne per cretinate. Che possono essere anche particolarmente significative, ma quelli sono sbagli. Sono sbagli così che fanno tutti. Che poi alla distanza non si sa, perché quella volta fu una perdita, ma alla distanza non si sa se avrebbe retto poi quello che io ho fatto, il cammino che ho fatto. Non ho fatto un cammino molto normale, ecco. Quindi che una donna riesca a reggermi accanto è difficile, eh? È molto difficile. Ed è stato sempre difficile. Tutte le donne di seminario spero questo, no? Beh, quello è un rapporto analitico, un rapporto di una volta alla settimana, in un certo modo. C'è quella libertà che ti dicevo prima, no? Sì. Quindi non è un rapporto personale. Ma penso che tutte le donne hanno qualcosa di personale, no? Non mi dici questo. Come tutte le donne qualcosa di personale? Tutto questo. Gli ha sempre qualcosa di personale, no? Sì, ma j'ai vu tutti questi, c'è da dire donne, io parlo con 5 donne di questo seminario, è molto diverso, una mercoledì, una giovedì, una martedì, e una lunedì. E quando io parlo di questa gente, gli ha qualcosa di personale, gli ha questa esplicazione di sogno, di tutto. Ah sì, ma nel contesto del seminario però. Sì, sì, può darsi il loro sogno è più, ma non posso essere così. Donc veramente l'oggetto di desiderio. L'oggetto di desiderio a livello di... Perché? Perché si fanno un'identità? E perché sempre la negazione te? Mi dici a me quando loro parlo di questo, te fare sempre la negazione. Perché di questo. Non è tutto. Tu tendi a vedere un entusiasmo che è soltanto una cosa parziale. C'è un lavoro, c'è uno scontro. Teatro, via vederlo, fa vedere, sì. Che è un confronto continuo. Sempre. Ciò non la toglie donna bionda, che ci penso. Sia, esatto, cioè, è sempre uno scontro quasi, quindi la simpatia ci sarà, ma mica è tutto così, eh. Chiaro, adesso sono giorni in cui le cose vanno bene, ma non ci sono stati tempi in cui... C'era un rapporto di una violenza spaventosa, eh? Ho dovuto leggerlo. Non c'è tutto questo. Io non so, tendete sempre a vedere l'idealizzazione, l'entusiasmo. Non è affatto vero. Non è affatto vero, è uno scontro, un confronto. Te l'ho detto prima, sono critici in una maniera spaventosa. Non posso fare un lapsus immediatamente, che non mi posso permettere niente. Quindi per me è tutta stilizzazione. Cioè, la mia immagine me la devo guadagnare giorno per giorno. Non è dato. Ogni sera, io i 15 anni, non contano. Conta quello che farò stasera. Che poi sia stato bravo per 15 anni, non conta niente. Non c'è pensionamento. Devo essere bravo stasera. Di volta in volta è una cosa nuova. Non è che mi assolvo per il passato. Cioè, non toglie che nella misura in cui rispondo, la cosa venga considerata e apprezzata. Ma non mi regala niente nessuno. Nessuno. Guai, non lo vorrei. Sì. Te l'ho detto prima, il fascino sta proprio in questa costrizione ad essere bravo. non mi consolano mai, insomma, la consolazione non c'è. E una volta, ma questo per darsi non mi piace, j'ai vu l'intervista d'un'attrice a te, una bionda, che ti ha posto la questione sull'amore il y a 10 anni. Ah, Monica Vitti! Monica Vitti. Sì, E che c'è spiace, alla dunque televisione. così. E allora? E allora dimmi te, allora. Sempre la stessa idea o? Sì. Sempre. Mamma mia, non posso essere lo stesso uomo, io penso. Io ho visto una. No, L'amore non no, esiste. se da dire. Io ho visto un uomo con una. Più chiaro. Occhiali con un bocca niente di questo è serenità, bellezza. Così. Sai cos'è? Che me lo dica, no? Sei Mi molto bello. freddo. Io quando ho visto, io dici no, io non piace questo Massimo, è brutto. Così molto freddo, molto. Cioè, di lui è malato, non tutti questo genere. Lui è sicuro malato. Mamma mia, che risponde. Allora, di questa storia. La durezza, hanno detto che è molto duro. Molto, molto, anche niente di. Tu sai, le occhi sono molto belle quando te parlano. Sempre così, molto scuro e la bocca, io vedere la bocca per me, oh, questo no, lui è malato, non tutti questa gente. Allora, Sono duro, questa storia. sì. E me dicono, non lo so, dicono che sono anche durette quando mi scontro con la violenza. O diverso te fra i 10 anni adesso, Beh, sarò no, diverso, no, certo, no, 10 anni sì, sono sicuro, passati. ma anche Ma di. fondamentalmente credo non tanto. Ok. Non tanto, dipende anche dalla situazione. Non tanto, c'era una violenza enorme. Adesso è molto minore. Quindi corrispondentemente io puoi dire sì che adesso mi lascio più andare, ma sempre fino a un certo punto, eh. La dimensione violenta, la psicosi può emergere sempre. E lì non deve essere tolleranti. Lì ci vuole confrontarsi con la violenza. E lì nell'80 indubbiamente c'era. O sarà stata colpa di Monica Vitti, non lo so. Non ho la più pallida idea, andò così nell'intervista. L'amore, l'amore non c'è, questa terribile malattia, questa terribile cosa. Come il discorso sul desiderio, il desiderio bisogna guadagnarselo. Bisogna prima guarire e poi avere il desiderio, non è vero, non è desiderio. E allora l'amore non c'è o il fu guarire di qualcosa? Purtroppo non c'è. Purtroppo non c'è, bisogna guarire prima. Guarire di qua per avere questo amore. Guarire? Se va a dire per avere il desiderio, guarire della violenza. Per Esatto. l'amore, È lo come stesso. la violenza, sempre la violenza. Bisogna guarire dalla violenza. Ah, Allora sempre. viene fuori l'amore. Dove esiste l'amore. Esiste, ma bisogna conquistarselo. Non è che esiste così, di norma ce n'è ben poco, ci sarà pure, ma di norma non c'è. Non c'è, perché ci vuole appunto questo inconscio, è una faccenda interna, bisogna conquistare all'uomo questa zona di inconscio. L'uomo sempre è tenuto lontano. Ha sempre tenuto lontano perché sarebbe stata una cosa bestiale, no? E quel discorso su Freud che dice che l'inconscio è malattia mentale. E quindi Che non è vero. non è vero, no? Non è vero, no. Però purtroppo i malati ci sono. La malattia c'è, non è vero come natura umana. se uno riuscisse in una situazione ideale a fare bene la nascita, a fare bene l'allattamento, a fare bene lo svezzamento, il prossimo non ha fatto un mostro. Purtroppo questo di norma non accade. Una madre è sempre anaffettiva, una madre è sempre non sessuata, e questa è la norma, è questa. Dobbiamo conquistarcela, dobbiamo. E è quello che cerchiamo di fare. E te ci arriva a questo? Spero. Sì o no? No, voglio sapere. Cioè, di io arrivo adesso a dopo la violenza, il gesto di desiderio, e in amore te, cioè, je sais pas, cioè, sentito questa cosa che è molto, molto lontana, molto... Non capisco se parli dei seminari o parli del mio privato. No, di te adesso, privato. Privato. Dipende. Quando lui non vuole riprendere, dipende. Non capisco dipende. Niente. Sì. Per la dinamica. Se tu mi ami per quello che sono adesso, se io poi domani scrivo un libro, tu mi odi. Oggi mi ami, se scrivo un libro, mi odi. Perché cambio. Questo è un sentimento normale, no? Non sì. È normale. E direi sì, è una dinamica normale. È una dinamica che accade. Ma non mi risponda in mia questione sempre. Cioè? Tu m'as pas répondu, non mi... Non ti rispondo? No. Ma sì, non so sì, che... Sì. Di che? Di questa, la stessa questione di il y a 10 anni che te... ci ha detto a Monica Vitti. Cos'è l'amore? Sì. In situazione ideale, quello che si persegue è un insieme di inganno, desiderio e creatività. L'inganno è quando una donna a un certo momento sembra che sia l'immagine ideale. È un inganno. Nell'ambito di questa immagine ideale c'è il desiderio. Perché nella misura in cui si vede questa immagine ideale si cerca di prendere il tutto il bello che c'è nella. E questo è il desiderio e la soddisfazione del desiderio. Poi però quando l'inganno un po' finisce, diminuisce, si vede quello che non va. Quello che non è particolarmente bello. E allora lì dovrebbe scattare non la rabbia, ma la creatività. Cioè, allora correggiamo, cambiamo, sei spettinato, pettinati, fare il bello che è venuto a mancare. La dinamica è questa. Donc le sentimento che la gente prende come l'amour o coup de foudre, no, questo di norma. Una storia falsa. Sono storie che non c'è Romeo e Giulietta, no, c'è tutto no. Questo. Romeo e Giulietta si ammazzano, non si capiscono. Quindi non è amore. Ah. Non è amore, perché non si capiscono. Perché per te il faut tutti capire tutti. Per riuscire a capirsi, cioè. Uh-huh. Riuscire a capire, a capirsi e riuscire a realizzare questo superamento. Perché l'importante è che le persone cambiano sempre. Vengano fuori situazioni nuove. Ne parlavamo proprio ieri. Nella misura in cui c'è questa immagine interna, questa fantasia interna dell'inconscio. Se io la colloco in te, è come se tu me la rubassi. Però la fantasia interna è enorme, è grande. quando diventa la tua immagine, è come se si chiudesse in una scatola, si limita. Mm-hmm. E quello è l'inganno. Perché la fantasia in croce è quella che è spaziata, non è chiusa in un'immagine femminile. E se tu cambi sempre, c'è la possibilità che questa fantasia si muova, cioè il movimento. Se tu non cambi, per esempio, le stesse cose, è una prigione da ripianto. Quindi il segreto sta lì. E l'amore sta lì. L'amore sta lì. Di riuscire a ingannarsi sull'immagine. Poi fare sì che non venga mai la delusione, è un lavoro continuo, una ricerca continua. Non deve essere mai stato. Se il discorso si ferma e l'amore è l'amore, è la morte. Perché l'altra persona diventa come questo lampadario. Normale. Sempre lo stesso. Ai limiti, se uno me lo sposta, me lo cambia, io mi arrabbio perché deve stare fermo. Io mi abituate a... Però quella è una cosa morta. Un essere umano no. Se non mi cambia, è come se mi diventasse il lume, il tavolo. E quindi è la morte. Cioè è una dinamica continua di ricerca, di cambiamento, di trasformazione. Sempre. Ognuno deve essere cimentato. Per cui ci amiamo follemente e poi tu domani vieni e dici io ho fatto un quadro. Come? Io devo trovare il modo di apportarmi a questa nuova realtà. Questo che ci apportano 15 anni a questa gente. Mi fai rispondere o sentire che... Sì, rispondo, sì. Sì, sarei occupato adesso, dimmi. Va bene. Io penso che tutte queste donne si sono curate di loro storia, di una storia. Tutte queste donne sono? Curate, on dit curate, curate. Guerita, di loro malattia veramente. Certo. Ma c'è un'altra malattia adesso. Qual è? Di posso avere tuo contento, tua soddisfazione di loro. Penso sempre che... Io? Sì. No? Ma la soddisfazione è che loro stiano bene. Che altre soddisfazioni ci sono? E penso che in questo genere c'è un rencontro in questo genere. Non penso così, non agenzia matrimoniale. Ma io lo so che c'è adesso molta gente insieme in questo seminario. Sì. E perché la stessa idea o perché adesso le gente cerca non lo so. No, io la prima volta quando io ho visto questo, ho detto, allora questo corso è un'agenzia matrimoniale unicamente per trovare un uomo. No, sono due storie. Io ho il mio metodo preciso. Io faccio le 4 ore del seminario. Come escono dal portone, come hai visto, sono liberi cittadini. Ah, sì. E a me non mi interessa più. Chiuso. E ognuno fa quello che vuole. Se poi si incontrano, vanno al cinema insieme, vanno a fare l'amore, vanno, a me non mi riguarda. Io i fatti privati non li voglio mai sapere. Ai seminari non si raccontano mai i fatti privati. Nel sogno non c'è qualcosa privato? Sì, ma è sempre riferito alla situazione in generale, mm-hmm. Riferito alla storia dei seminari, non quello che hanno fatto più o meno. Una parte però no, sono già prima insieme. Sì. Per cui hanno già un rapporto da prima. Poi vengono, uno viene il martedì, uno viene il giovedì. Sì, non lo stesso giorno. Già da prima ce l'hanno. E poi in 15 anni succedono molti cose. Io penso che anche questo è il tuo but, tuo desiderio, non lo so, se che le gente hanno la stessa idea, più o meno, di fare la stessa scuola, la stessa filosofia della vita e rimane insieme anche. Beh, certo, si intendono meglio. Sì. Si intendono meglio. Suppongo almeno, perché poi non è che sappia niente. Perché qualcuno in tuo studio, una donna di tuo studio, incontra un uomo molto normale di strada, che fa una vita molto normale, non ma posso capire niente, no? Questa donna chi adesso molto... Sì, ma non accade, ci sono cose di questo genere. Spesso accade che poi passa un giorno, passa l'altro, anche quello diventa curioso. Ah, e venire... E quindi viene... Me lo dicono spesso. Se io vieni fra 2 anni io non trovo niente, tutta la mattina massimo fare di studio. Mamma mia. Ma sempre il pomeriggio? Sempre questo, ormai. È dall'84, 4 ore. Che sono sempre fissi. Lunedì, martedì, mercoledì, eccetera. Finora sono riuscito a tenere questa cosa qui. Tante volte viene qualcuno e dice, ma io ho la ragazza che viene qui da tanti anni, vabbè. E allora viene. Dopo lui rimane. Viene, dopo rimane, va via, fa quello che vuole, insomma. Ci sono le situazioni più varie, più diversificate, no? È tutto diverso, ognuno ha la sua dimensione, non è un gruppo compatto, ognuno va per i fatti suoi, parte quelle 4 ore. E Marushka, esce che l'ha fatto questo seminario? Una volta? Una volta venuta. Per vedere, per curiosità? Venne una volta il mercoledì.